Se qualcuno ha domande, questioni, può sempre farle, poi diciamo la risposta magari può arrivare anche differita nel tempo, però insomma. Allora, vediamo di San Tommaso un ultimo capitolo che era come descrive Tommaso lo stato originale, la condizione originale dell'uomo. Teniamo sempre presente che proprio questo è uno dei punti interessanti anche nel confronto tra la fede, la teologia e la visione moderna e scientifica del mondo. Perché? Perché noi diciamo che nel peccato originale, almeno questa è la dottrina classica e anche affermata in modo direi abbastanza esplicito dai concili, quindi anche dogmaticamente definita, è che per il peccato originale l'uomo perde quella condizione, quello stato che aveva all'inizio, uno stato che alla luce un po' della conoscenza attuale del mondo, anche di come può essersi formato l'uomo, fa un po' problema, pensare all'uomo nella condizione del paradiso terrestre fa un po' problema. Allora, vedere come descrive questa condizione San Tommaso mi sembra interessante perché mette a fuoco bene alcuni punti che possono servire anche alla fine quando cercheremo di focalizzarci un po' proprio su questo, su come possiamo anche oggi nel 2012 concepire la condizione originale dell'uomo. Allora, Tommaso dice, prende fondamentalmente, diciamo in modo letterale, i racconti della Genesi e ritiene quindi che anche lui, che il paradiso fu un vero luogo, come già dicevano i padri e Agostino anche. E poi dice: non c'è motivo di supporre che l'universo materiale nel quale viveva il primo uomo fosse diverso dal nostro. Non dobbiamo immaginarci un mondo, diciamo, diverso sostanzialmente da quello attuale. E diceva Tommaso: anche se Adamo non avesse peccato, il lupo avrebbe divorato l'agnello. Cioè, tra gli animali ci sarebbe stata le dinamiche che noi conosciamo, diciamo, secondo Tommaso. La natura degli animali non è stata cambiata dal peccato dell'uomo, lui sostiene. Per vivere l'uomo avrebbe avuto bisogno di mangiare, e la razza umana si sarebbe moltiplicata per via di generazione, quindi come succede adesso, i bambini sarebbero cresciuti come crescono oggi, raggiungendo la perfezione conveniente a ciascuno degli stati del loro sviluppo. Qui lui vuol dire che non si deve pensare, come evidentemente alcuni magari pensavano, che nello stato originario tutti fossero dotati quasi della scienza infusa, come senza bisogno di, invece senza un processo di crescita nella loro conoscenza. Poi dice, vediamo cose più anche interessanti, e tra l'altro dice: anche la vita sociale sarebbe stata fondamentalmente come, diciamo, in alcune sue dinamiche come quella di oggi, escludendo evidentemente le ingiustizie e il peccato, però dice: ci sarebbero state delle ineguaglianze tra gli uomini, dei padroni e dei servi, e una divisione nel possesso dei beni materiali. Questo dice Tommaso, che qui è molto concreto, molto... La vera differenza tra l'umanità primitiva e l'uomo decaduto, quindi l'uomo dopo il peccato originale, è da cercare altrove e dove. Nel paradiso, quindi nello stato originario, vi era un equilibrio perfetto tra il corpo e l'anima, tra le facoltà sensibili, quindi i sensi e le emozioni e le passioni, e le facoltà superiori, e anche tra l'uomo e l'universo nel quale viveva. Quindi equilibrio dell'uomo dentro di sé, quella che si chiama integrità normalmente, abitualmente, o anche che secondo il linguaggio più anche dei padri era la giustizia originaria, ricordiamo che santità e giustizia originaria, santità fa più riferimento alla presenza nell'uomo della grazia, e giustizia invece a quell'ordine, a quell'armonia che esisteva nell'uomo tra le facoltà superiori e le facoltà inferiori. Quindi, ecco, questo equilibrio nell'uomo e anche poi con il resto del cosmo era frutto della giustizia originale. Cosa vuol dire equilibrio con rispetto al cosmo? Adesso lo dice qualche cosa su questo, e lo dico subito. La presenza dei doni spirituali nell'uomo, anticipo quello che lui dice un pochino dopo, si rifletteva sul corpo dell'uomo impassibile, che era reso impassibile, poi su questo diremo qualcosa. Gli animali lottavano tra loro, come abbiamo detto prima, il lupo divorava l'agnello se poteva, ma l'uomo era il Signore e il Re della creazione. Quindi era il Signore e il Re della creazione. Era incapace di essere ferito o di ferire. Tanto a causa, come dice, spiega lui questa cosa, tanto a causa della perfezione della sua intelligenza che a causa della particolare cura che aveva di lui la provvidenza di Dio. Io qui mi baso sul riassunto che fa della dottrina di Tommaso l'autore di questo libro, Rondé. Poi mi sono cercato una questione, la 97, in cui nelle questioni della prima parte della Summa, da 95 in poi, tratta molte delle questioni sull'origine. Nella 97 in particolare, effettivamente Tommaso spiega come l'uomo era dotato di immortalità. E allora, e lo spiega dicendo questo, che era incapace di essere ferito, no? Lui dice: il corpo dell'uomo era indissolubile, cioè era incorruttibile, diciamo, non per un vigore, una forza sua esistente in lui, ma perché l'anima possedeva una qualche virtù soprannaturale concessa divinamente, attraverso la quale il corpo veniva preservato da qualunque tipo di corruzione. Quindi lui dice, non era una capacità data all'uomo per natura, questa, che l'anima potesse preservare il corpo dalla corruzione, ma data da Dio, causa efficiente di ciò che è l'uomo, che dava all'anima una quedam vis, dice, una certa vis, virtù soprannaturale, attraverso la quale lei poteva garantire l'integrità del corpo. E quindi l'uomo non poteva essere, diciamo, oggetto di ferite. Ora, questo è proprio un punto, secondo me, che effettivamente oggi andrebbe un po' sviscerato, approfondito e compreso meglio, anche in dialogo con la, diciamo, conoscenza della struttura anche della materia, di com'è. Ad ogni modo, quell'equilibrio che c'era tra l'uomo e la natura in parte si spiega così, cioè nel fatto che l'uomo era veramente signore, quindi era non poteva essere a subire dei danni da parte della natura. E Tommaso, non so se lo... Ecco, poi dice, c'era anche una cura particolare che Dio aveva di lui, una provvidenza particolare di Dio. Questo senz'altro anche mi sembra un'idea interessante. Mi fa pensare un po' quando Gesù dice nel Vangelo: se aveste fede come un granello di senapa, potreste dire a questo gelso: sradicati e trapiantati nel mare. Allora, se ci fosse veramente tra noi e Dio la relazione giusta, profonda, vera, che doveva esserci con Adamo, Adamo probabilmente poteva, cioè l'uomo come era voluto da Dio, poteva chiedere a Dio tutto quello che fosse conveniente e buono, anche che magari era al di là delle sue forze, evidentemente in un rapporto di padre e figlio giusto e buono poteva, ecco, ricevere da Dio anche oltre ciò che era per lui naturale. Poi a me viene anche da ricordare che riguardo al rapporto con la natura, sia nella vita di vari santi, queste sono cose che boh, io vi dico, ma così più prendetele come non le ho trovate scritte, ma nella vita di alcuni santi un certo rapporto anche con le creature, cioè con gli animali, in cui si vede che c'è, si stabilisce come una sintonia, anche una docilità dell'animale nei confronti dell'uomo. Ancora di più il passo del Vangelo di Gesù nel deserto, quando dice che le fiere lo servivano. E in questo ricordo di aver letto un commento della CEI, di una pagina internet fatta curata dalla CEI, in cui si faceva riferimento, si ricollegava a questa condizione di Gesù con gli animali selvatici che lo servivano come una sorta di anticipo di un ristabilimento della condizione originaria, in cui l'uomo effettivamente probabilmente poteva avere un dominio sugli animali, che, ecco, capire come, con che meccanismi, diciamo, fisici o psichici, non lo so, però non è impossibile pensarlo, anzi, si è dato e si anche appunto nella vita dei santi, oltre che in quella di Gesù. Quindi, insomma, io penso che Tommaso avesse in mente qualche cosa del genere. Poi, ecco, i nostri progenitori erano giustificati dal dono, cioè erano resi, diciamo, erano santificati dal dono della grazia abituale. In questa grazia si innestavano le virtù infuse, per le quali l'attività umana era orientata verso Dio, fine ultimo. In virtù di questo dono, in virtù effettivamente della grazia, regnava un equilibrio perfetto nell'uomo tra il corpo e l'anima. Esistevano le passioni, ma queste erano ragionevoli e ordinate. Bene, allora io direi che questa più o meno la descrizione dello stato originario, ecco, per Tommaso. Aggiungo che Tommaso accorda al primo uomo, in parte noi l'abbiamo già detto, il dono dell'immortalità come un dono dovuto alla grazia. Quindi non come l'immortalità non gli era già data in modo definitivo come suo possesso, diciamo. Come sarà invece con il corpo risorto, come sarà in Gesù risorto e in noi. Lì è come se, diciamo, Dio ci consegnerà in un modo pieno e definitivo la nostra umanità in modo stabile per sempre. Qui per Adamo non era così, era un qualcosa che invece era concesso da Dio. Se l'uomo avesse saputo conservare intatto questo primo dono della grazia, sarebbe passato senza morire a uno stato ancora migliore e definitivo. Questa è un po' l'idea. Bene, ecco, ci sono su questo domande, beh, magari curiosità uno potrebbe averne tante, però Terremoti non c'erano. terremoti, non lo so, Uragani, queste terremoti cose. che fossero dannosi per l'uomo, o perlomeno l'uomo doveva avere o la capacità lui in sé, o grazie a una cura provvidenziale da parte di Dio, È la sovrappopolazione. Non moriva nessuno, ma con le poi, guerre ma così. poi sarebbe stato appunto Portati tutti in cielo. elevato a uno stato superiore, alla gloria. Infatti questo non so, è difficile forse da immaginare come Ma potesse non muore essere. mai nessuno sulla No, no, no, venivano portati e finiscono la loro vita terrena, insomma, questo sì. finiscono la loro vita terrena, certo, poi però alla fine dei tempi comunque tutti noi dotati di corpo e anima ci staremo tutti da qualche parte. Pensare una cosa dematerializzata completamente non è umano, cioè sarà la nuova creazione, ma che La natura, diciamo, degli animali, delle piante, cioè, non dovrebbe essere cambiata, però nella cosiddetta maledizione di Dio, dice Dio spine e cardi. produrrà per te, sembra ci fosse un cambio per la natura dell'uomo. Se l'uomo che coltivava riceve soltanto frutta, allora i frutti, no, riceve qualcosa di diverso che prima non era previsto. Questo spine e canti vuol dire qualche cosa cambia nella natura. Bisognerebbe approfondire questo. Cioè, senz'altro cambia il rapporto tra l'uomo e la natura. La natura cambia però. Cambia la natura in sé. Io questo, sinceramente non... Però questo spine e canti mi ha sempre fatto pensare che qualcosa cambia anche nella natura. Alcune volte, alcuni punti ho letto, mi ricordo dove, che durante lo stato originale il leone sarebbe stato un erbivoro. però io dico, cioè, no, veramente questo, pensarlo così diventa un po' difficile anche pensando ai dati che noi abbiamo della storia della natura, diciamo, ma anche cioè, i comportamenti degli animali conosciuti, niente ci permette di pensare che, non so, qualche decina di migliaia di anni fa, non so, cioè il leone fosse, non mangiasse, cioè aveva gli stessi comportamenti, cioè, anche prima della comparsa dell'uomo sulla Terra. Allora, a meno che uno non voglia collocare, adesso qui facciamo un po' di fanta, Adamo ed Eva, una specie di, veramente di, come di universo parallelo, regolato con leggi diverse, poi a causa del loro peccato vengono in questo, ma allora come funzionava? Però questo qui sembra funzionare con le stesse leggi, con le stesse dinamiche, da tempi sicuramente superiori a quelli della comparsa dell'uomo. Quindi io penso che si possa conciliare quello che dice anche la Genesi, anche se poi il racconto ha sempre... Vabbè, comunque... Cioè che cambia il rapporto dell'uomo con la natura soprattutto a causa dell'uomo, cioè della sua incapacità, lui che vuole essere superiore, si trova invece improvvisamente ridotto alle sue sole forze naturali, diciamo, dal punto di vista dell'interazione fisica, chimica con l'ambiente. Mentre prima aveva un principio, un qualcosa per cui poteva essere in qualche modo superiore, quindi avere quella anche superiorità nei confronti degli animali, data da Dio, donata da Dio, persa la relazione con Dio, Dio lascia che l'uomo sia, diciamo, in balia delle forze naturali. Allora, esatto. E allora a quel punto la natura si comporta probabilmente come prima, ma mentre prima l'uomo aveva una marcia in più per poterla, anche prima doveva coltivare e custodire. Cosa vuol dire? Che non faceva, cioè può voler dire che faceva spine e cardi, ma l'uomo aveva la capacità con serenità, diciamo, di gestirla e di poterla ordinare, di poterla... Quindi non necessariamente dobbiamo pensare, mi sembra che dica Monasterio nel suo libro Dio fece il presepe, ha un'immagine molto bella, che a me piace molto quel libro, dice nel momento del peccato originale gli scorpioni affilano le loro code, le loro punte e si riempiono di veleno, e quegli altri affilano gli artigli. Io non penso che dobbiamo pensare qualcosa del genere, che mi sembrerebbe anche difficile veramente da inquadrare in una conoscenza del mondo come quella che ci danno le scienze. Invece mi sembra più possibile che l'uomo perda quella, appunto, quelli che si chiamano preternaturali nella tradizione, e che quindi ormai deve fare con le sue sole forze, e le sue sole forze sono tante volte insufficienti per non subire i danni di un terremoto, o per poter lavorare la terra senza sudore, fatica e a volte inefficace. Io penso più questo. Cioè l'uomo nello stato di giustizia originale ha veramente tutte le caratteristiche del figlio di Dio, cioè Dio lo mette in una situazione di figlio di Dio, il re effettivamente dell'universo, allora... E poi lui perde questo, no? Perché tanto è come congiungi il racconto della creazione del peccato originale con lo stato molto primitivo dell'uomo come lo conosciamo dalla paleontologia, eccetera, sì. No? Sì, comunque, ma anche su quello io tutto sommato penso che si possa abbastanza capire, però poi su questo cercheremo di fare... L'uomo ha creato effettivamente i doni preternaturali, perché sennò non esatto. So neanche come vivrebbe, insomma. Esatto, ovviamente. Cioè, dobbiamo immaginare che l'uomo era in una condizione elevata, e per quanto dotato di una corporeità analoga alla nostra, però... però era come, diciamo, potenziato, sia nella sua costituzione anima-corpo, sia anche un po' nei confronti della natura, doveva avere una capacità di essere signore, di essere re in più. E... Ma sembrerebbe che quindi le conseguenze del quadro regionale, più che riguardare, diciamo, l'aspetto spirituale dell'uomo, che forse rimane ancora tutto sommato abbastanza intatto, riguarda le potenze inferiori, che sono in grado in qualche modo di ostacolare questo processo, di danneggiarlo. Per cui sembrerebbe quasi che avrebbe ragione Cartesio, che dice che gli uomini hanno un'intelligenza per lui uguale, comunque diciamo efficiente, diciamo così, e il problema la fanno le passioni che ti fanno prendere per chiare istinte idee che non lo sono, e quindi lui si sbaglia, si comporta in maniera illogica, non riesce a arrivare alla verità, e quindi sembrerebbe che il male venga dal basso in un certo senso. Sicuramente viene anche dal basso. Il male, in primo luogo, il primo peccato è nato proprio chiaramente non dal basso, ma dalla spiritualità dell'uomo, diciamo dal cuore dell'uomo nel senso biblico della parola, quindi centro della volontà, dell'intelligenza. E poi, diciamo, tra poco leggeremo quello che dice il Concilio di Trento, l'uomo viene peggiorato in tutto, in tutte le sue facoltà, volontà, intelligenza e poi la concupiscenza che riguarda il mondo delle passioni e delle... che si ribella, diciamo, che uno potrebbe leggere questo tutto questo anche nel senso di una perdita di quella particolare vis, di quella particolare forza che, di cui era dotato prima lo spirito umano, che permetteva all'uomo anche di essere signore delle proprie passioni, dopo invece gli sfuggono di mano. E questo problema anche della unità anima-corpo, no? Perché agganciando a quello che diceva Giorgio, effettivamente prima era veramente più, c'era una unità più forte, sì, no? sì, certo. Poi è indebolita, e anche le passioni effettivamente dal basso hanno più forza, diciamo, sì. Rispetto a prima tendono a tirare l'uomo con più intensità, e lui non è capace di come, insomma, viene l'esempio di una carrozza tirata da tanti cavalli, che sono tutte le facoltà dell'uomo. A un certo punto sti cavalli, uno può andare da una parte che non è quella giusta, e magari tutta la carrozza allora va di là, perché non ha sufficiente forza per orientare. Bene, io magari lascerei ulteriore spazio di approfondimento, perché poi alla fine di tutto il nostro percorso cercheremo di fare qualche riflessione anche un pochino più sistematica. Adesso stiamo facendo ancora un po' la storia della dottrina, poi però alla fine metteremo a fuoco un po' proprio anche alcune di queste questioni, per quello che si trova scritto e per quello che ci possiamo anche immaginare noi. E allora facciamo un salto di qualche secolo e arriviamo al periodo di Lutero e del Concilio di Trento, perché come spesso succede nella Chiesa, poi le questioni vengono affrontate e si dà loro una sistemazione anche dogmatica nel momento in cui si presentano i problemi. Allora, quando all'inizio del 1500 viene fuori Lutero con le sue tesi, allora ecco lì è il momento in cui la Chiesa in fondo raccoglie tutta la tradizione precedente e la cristallizza nei decreti del Concilio di Trento. Quindi Lutero, diciamo, quello che in fondo un po' si sa, è noto, di lui non ci occorrerà molto, ma giusto qualche accenno per capire poi anche alla luce di Lutero quello che dice il Concilio di Trento. Uno dei grossi problemi di Lutero è che la natura umana per lui viene totalmente corrotta nel peccato originale. Vediamo come descrive questa totale corruzione, anche con espressioni molto forti. Che cos'è dunque il peccato originale? Si chiede Lutero. Secondo le sottigliezze dei teologi è la privazione della giustizia originale. Secondo l'Apostolo, però, e secondo il naturale buonsenso di Gesù Cristo, non è soltanto la privazione di un requisito della volontà o della luce dell'intelligenza o del vigore della memoria, ma una privazione di ogni rettitudine in tutte le potenze, tanto del corpo che dell'anima, in tutto l'uomo, interiore ed esteriore. È la prontezza nel fare il male, la nausea del bene, il disgusto della luce e della saggezza, l'amore dell'errore e delle tenebre. Pesante, no? La fuga e il sovrano disprezzo delle buone opere, la corsa sfrenata verso il male. I santi padri l'hanno detto, il peccato originale è la concupiscenza. Qui è un po' impreciso, perché noi abbiamo sempre detto che già Agostino, per quanto un po' poi travisato da alcuni autori della sua, suoi discepoli, però Agostino distingue chiaramente tra la concupiscenza e invece il peccato vero e proprio che ognuno si ritrova e che viene lavato e tolto nel battesimo, mentre la concupiscenza resta perché in sé non è peccato. La legge della carne, la legge delle membra, un languore della... una malattia congenita, dice la privazione della santità in tutte le membra, è una visione dell'uomo veramente irreparabilmente danneggiato, proprio totalmente, totalmente corrotto. Ora vedremo che il Concilio di Trento dirà che tutto l'uomo viene deteriorato, tutto, ma nel senso di in tutte le, non solo nell'anima ma anche nel corpo, però non viene corrotto totalmente, come invece afferma Lutero, per cui nell'uomo non c'è più niente di buono e di sano. Ecco, la seconda, quindi una prima cosa di Lutero è questa: la natura umana è totalmente corrotta. Allora, come ci salva Cristo? Cristo, in quanto all'opera che Cristo compie, cioè la croce, è per Lutero una vera e propria sostituzione penale, cioè Cristo riceve, lui, la pena che toccherebbe a noi. Ma nel senso che è il padre che schiaccia suo figlio, il padre che punisce suo figlio al posto nostro. Visione che invece, chi schiaccia Cristo nella croce sono gli uomini e i nostri peccati, non è che il padre punisce suo figlio, questo è importante. Che invece per Lutero è proprio così, è una sostituzione, e proprio perché in noi non c'è niente che può essere valorizzato, non c'è niente di buono, a noi semplicemente cessa di essere imputato il peccato, ma non cambia niente in noi. Per Lutero la grazia di Dio in noi non opera niente, non cambia niente, tanto che lui diceva: pecca audacemente, ma credi ancora più vigorosamente. Cioè, l'idea sua è che tu continui a peccare, come prima, esattamente come prima. Pecca pure. L'importante è che hai fede, solo la fede. Le opere non servono e anzi non hanno proprio nessuna rilevanza. Invece, anche in questo... senz'altro, la visione cattolica è che invece la grazia intanto agisce su una natura, la sana perché può essere sanata e la eleva, ma agisce su una natura che c'è e che non è invece completamente danneggiata dal peccato. Quindi, questo in estrema sintesi, la posizione di Lutero e il Concilio di Trento, che è interessato, direi, soprattutto a chiarire la questione della giustificazione. Però ecco, per capire l'opera di Cristo che ci salva, ci giustifica, il Concilio di Trento affronta il tema del peccato originale. Nella sessione quinta, nel 1546, ci sono cinque decreti più un sesto, che è breve, che riguarda Maria, la Madonna. E in questi decreti, allora, forse una lettura anche con un breve commento ci può servire, perché qui vediamo un po' raccolti tutti gli spunti che abbiamo visto anche in queste prime lezioni, e anche, ecco, una buona sintesi. Allora, il primo decreto di questa sessione quinta dice, il primo canone, scusate, dice: se qualcuno rifiuta di riconoscere che Adamo, il primo uomo, avendo trasgredito nel paradiso il comando divino, perse subito la santità e la giustizia nella quale era stato creato, e per l'offesa di quella prevaricazione incorse nella collera e nello sdegno di Dio, e in seguito nella morte, capisco che è difficile seguirlo così, però incorse quindi nell'ira di Dio, e in seguito nella morte di cui Dio l'aveva minacciato, e con essa, con la morte, nella servitù del demonio, sotto il potere di colui che fin da allora ebbe l'impero della morte, vale a dire il demonio, e che a causa di questo peccato Adamo interamente nell'anima e nel corpo fu mutato in uno stato peggiore, anatema sit. Cosa si dice qui fondamentalmente? Intanto si dice: la trasgressione di Adamo è fondamentalmente appunto aver trasgredito il comando divino. Il Concilio non entra in merito a che tipo di peccato è stato, fondamentalmente visto come disobbedienza, però non c'è una grande riflessione su questo. Quello che succede invece, le conseguenze in Adamo, in questo primo canone, poi vedrà le conseguenze anche in noi, nella discendenza di Adamo, sono la perdita della santità e della giustizia originaria e la soggezione alla morte. Quindi, ecco, Trento intende, come ha inteso tutta la tradizione, diciamo, fondamentalmente, che la morte nel senso fisico del termine, entra nell'uomo a causa del peccato. E poi, ecco, Adamo interamente nell'anima e nel corpo fu mutato in uno stato peggiore. In questo, diciamo, concorda con la visione di Lutero, cioè che tutto, anima e corpo, viene peggiorato. E si distingue invece in questo da una dottrina che era propria dei pelagiani, che pensavano che invece l'anima rimanesse sana, diciamo, con il peccato, e non avesse quindi bisogno necessariamente della grazia di Dio. Erano disposti a riconoscere che la morte, quindi la debolezza fisica, era una conseguenza del peccato originale, ma l'anima non era macchiata. Invece Trento afferma che tutto l'uomo, in tutte le sue facoltà, viene in deterius commutatum, viene cambiato in peggio. Quindi questo per quanto riguarda Adamo. Il secondo canone guarda alle conseguenze per noi. E si dice fondamentalmente: se qualcuno sostiene che la prevaricazione di Adamo fu dannosa soltanto a lui e non alla sua posterità, eccetera eccetera, e che egli perse non solo per sé e non anche per noi, perse solo per sé e non anche per noi la giustizia e la santità che aveva ricevute, anatema sit. Quindi trasmise al genere umano la morte, le altre pene corporali, dice, e il peccato, che è una morte dell'anima. Ecco, se qualcuno negasse che Adamo ha trasmesso tutto questo alla sua discendenza, anatema sì, perché contraddice l'apostolo San Paolo che dice, il famoso passo pluricitato di Romani capitolo 5, 12, versetto 12, che viene letto come già lo leggeva Agostino, con quel famoso in quo omnes peccaverunt, perché dice: per un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per il peccato la morte. Così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti in lui peccarono. Tutti in lui, questo è in lui, in Adamo. Quindi, ecco, le conseguenze del peccato originale sono in noi sia appunto il peccato stesso, sia la morte e le altre conseguenze, la concupiscenza, eccetera. Come? E poi, terzo canone, si parla di come viene propagato il peccato e si dice non imitazione, non per imitazione. Questo ci si richiama ai pelagiani, che pensavano che il peccato dell'amo fosse solo un cattivo esempio che si... ma propagazione, per propagazione. A volte si trova scritto, anche per esempio questo libro traduce questo termine con generazione, ma invece bisogna distinguere, perché anche bene, generazione è un certo modo di propagazione del peccato originale. Invece Trento non dice questo, lo diceva Agostino, generazione, lo dice, direi, lo dice anche Tommaso, generazione, però Trento si mantiene e dice, si mantiene, diciamo, un po' al di sopra. Si quis o cade peccatum quod origine unum, il peccato di Adamo uno nella sua origine, est et propagazione, non imitazione, transfusum omnibus. Vabbè, ok, quindi dice propagazione, per propagazione. E diventa, per propagazione diventa proprio di ciascuno, proprio di ciascuno di noi. È uno nella sua origine, ma trasmesso così per propagazione diventa proprio a ciascuno di noi. E questo non è cancellato dalle capacità umane o da altro rimedio che non sia il merito dell'unico mediatore Gesù Cristo. Ok. E poi, seconda parte di questo terzo canone, se qualcuno nega che questo merito si applichi tanto ai bambini che agli adulti attraverso il battesimo conferito secondo la forma della Chiesa, anatema sit. Quindi l'unico rimedio contro il peccato originale, come contro gli altri peccati, è la grazia di Cristo, in particolare nel battesimo, che si applica anche ai bambini. Quindi si riafferma quello che già era stato affermato in precedenza, che anche i bambini hanno, anche se non hanno peccati personali, hanno qualcosa che deve essere invece sanato, che è il peccato originale. E poi su questo dedica un quarto canone proprio sul battesimo dei bambini. Dice: se qualcuno afferma che non è necessario battezzare i bambini anche nati da genitori credenti, perché alcuni dicevano: ma se i genitori sono credenti, quindi sono in grazia di Dio, dovrebbero trasmettere la vita al bambino libera dal peccato originale. Invece era una delle tante ipotesi e teorie. Invece lui dice: anche nati da genitori credenti, se qualcuno afferma che non è necessario battezzare i bambini, o dice che battezzandoli per la remissione dei peccati non hanno però in se stessi nulla che debba essere espiato dal bagno di rigenerazione, tanto che la formula per la remissione dei peccati per essi non sia vera ma errata, anatema sì. Cioè, un discorso lungo per dire che chi ritenesse che il battesimo dato ai bambini che non hanno peccati personali non abbia su di loro nessun effetto, sbaglia. Invece anche per loro vale la formula per la remissione dei peccati, che è il motivo per cui si amministra il battesimo. Una parte del motivo, nell'altra è l'incorporazione a Cristo, che forse qui sottolineavano di meno. Ma... E qual è il fondamento? Qui ritroviamo moltissimo Agostino. Qual è il fondamento di questa affermazione che il battesimo serve anche ai bambini? L'Apostolo dice infatti: per un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per il peccato la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini perché in lui tutti peccarono. Il solito stracitato Romani 5,12. Poi dice, su questo si diffonde, e infatti a causa di questa norma che anche i bambini, i quali non hanno ancora potuto commettere alcuna colpa personale, sono veramente battezzati per la remissione dei peccati, affinché la rigenerazione purifichi in essi ciò che la generazione ha loro fatto contrarre. La rigenerazione nel battesimo purifichi ciò che la generazione ha loro fatto contrarre. Ecco, in questo punto effettivamente anche il Concilio usa il termine generazione. E cita qui una frase del Vangelo di Giovanni, Giovanni 3,5, quando Gesù parla con Nicodemo e dice: se in verità l'uomo non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel Regno dei Cieli. Allora, proprio su questa frase della Scrittura, di recente la Commissione Teologica Internazionale, pensando alla salvezza dei bambini senza battesimo, aiuta a interpretare questa frase, come dire... Certo, se noi prendessimo alla lettera in modo assoluto questa frase, dovremmo pensare che chi non è battezzato, non rinasce d'acqua e da Spirito Santo, quindi chi non è battezzato non può entrare nel Regno dei Cieli, punto. Ma invece questa frase non ha un valore assoluto. Così come, dice la Commissione Teologica, non ha un valore assoluto quell'altra frase di Gesù: se non chi non mangia la mia carne non beve il mio sangue non avrà la vita eterna, non ha la vita eterna. Perché per esempio un bambino che viene battezzato poi muore non ha ancora ricevuto il corpo di Cristo, la comunione, oppure siamo pacificamente convinti che la Chiesa intende, ha sempre inteso che quel bambino può essere andato in cielo, no? Così come non si prende in modo assoluto la frase sul corpo di Cristo, non va presa in modo assoluto neanche questo, ma vanno lette e interpretate come: nessuno può salvarsi senza essere in relazione, in fondo, con il battesimo e con l'Eucaristia, cioè con la Chiesa, cioè con Cristo. Alla fine, però, non vanno lette come una necessità assoluta, del battesimo o addirittura dell'Eucaristia per la salvezza. Comunque questo lo riprenderemo anche più avanti. Poi, ultimo canone, il quinto canone sostanzialmente dice che il peccato originale, ecco, questo senz'altro è molto riferito a Lutero, il peccato originale è rimesso nel battesimo. Reatum originalis peccati, il reato, la colpa del peccato originale viene rimesso. Vi leggo il testo: se qualcuno nega che per la grazia di Gesù Cristo nostro Signore conferita nel battesimo l'offesa del peccato originale sia rimessa e venga tolto tutto ciò che ha veramente e propriamente carattere di peccato, se qualcuno dice al contrario che il peccato è solo sfiorato o non imputato, anatema sì. Chi diceva che il peccato smette di essere imputato e basta, ma rimane in realtà nell'uomo? Lutero. Quindi, se qualcuno dice che il peccato è solo sfiorato e non imputato, cessa di essere imputato, anatema sì. Perché, cita la Scrittura, Dio non odia nulla in coloro che sono veracemente rigenerati e non c'è alcuna condanna per coloro che sono sepolti con Cristo per mezzo del battesimo. Romani 6,4. D'altra parte, e qui arriva invece una precisazione sulla concupiscenza, che pure anche in riferimento a Lutero, d'altra parte il Concilio riconosce, e ne ha l'esperienza, che la concupiscenza o il focolaio del male permangono nei battezzati, ma questa concupiscenza che ci è lasciata per metterci alla prova non può nuocere a coloro che, lungi dal consentirvi, vi resistono coraggiosamente, aiutati dalla grazia di Gesù Cristo. E c'è di meglio: colui che avrà condotto il buon combattimento sarà coronato. Seconda lettera a Timoteo. L'apostolo chiama, quindi chiarisce che la concupiscenza rimane nell'uomo, ma non ha in sé nessuna ragione di peccato, perché tutto ciò che è peccato viene tolto nel battesimo. Rimane come per metterci alla prova, e addirittura se noi lottiamo con l'aiuto della grazia di Dio e la vinciamo, cita San Paolo a Timoteo che dice: colui che avrà condotto il buon combattimento sarà coronato. E poi chiarisce: l'apostolo chiama talvolta questa concupiscenza col nome di peccato, ma il Santo Concilio dichiara che mai la Chiesa ha pensato in tal modo che nei battezzati essa, la concupiscenza, sia veramente un peccato. Mai la Chiesa ha pensato che nei battezzati la concupiscenza sia un peccato. La si chiama così solo perché, venuta dal peccato, inclina al peccato. Conseguente al peccato e inclina al peccato, ma in sé non è peccato. Se qualcuno afferma il contrario, ecco. Quindi qui ci sono in questo canone soprattutto le precisazioni nei confronti di Lutero. I primi sono forse più ancora, riprendono la dottrina anche in opposizione agli errori pelagiani. C'è un ultimo canone che dice: questo Santo Concilio dichiara tuttavia che non è sua intenzione comprendere in questo decreto, dove si tratta del peccato originale, la beata e immacolata Vergine Maria, dei genitrice, madre di Dio, ma che... ok, va bene, basta. Quindi dice esplicitamente, questo prima della dichiarazione del dogma dell'Immacolata, dice esplicitamente che tutto quello che viene detto in questi canoni non deve essere riferito alla Beata Vergine Maria. Non dice di più, però la chiama Immacolata, Immaculata de Genetrix, però non, ecco, la esclude da quello che si è detto, che insomma sembra molto interessante, molto bello. E abbiamo sforato un po', allora per ora concludiamo, poi